Ma ritorniamo alla narrazione di un'altra ecclesiastica cerimonia che si usa in molte religioni di monache, se non in tutti, nomata consacrazione che è della professa. Dopo il corso di sua primavera e finito il quinto lustro celebrata, come che sia questa una riferma ed autenticazione del di lei sposalizio con il suo signore. Dica per me l'amante svisceratissimo Cristo, per noi esanimato con quante quali ingratitudine venghi anticipatamente ricompensata la sua gran prodigalità e abusato l'onore che fa a una vil creatura di congiungersi seco con vincolo di santità. Ah, che sì immenso beneficio viene prevenuto con offese degne d'eterna morte. Voleva Seneca che l'uomo, cui non piaceva riuscire ingrato, avesse un'instabile perpetua memoria di benefici ricevuti e non si dimenticasse in eterno. Ma se questo filosofo ciò richiedeva per corrispondenza a favore di mondo, come o come si dovrebbe da quelle vilissime creature conservar sempre viva la ricordanza delle infinite grazie nell'essere state elette ancelle, anzi spose ed amanti del Creator loro conseguite? Ciò però avviene perché ingratissime non comprendono l'eminenza del beneficio. Anzi, prive di verecondia nel volto e colme di displicenza nel cuore, solo forzate dalle imposte leggi dell'infamia, con labbra immonde proferiscono le terribili parole del sacro sposalizio, ecce venio. Con ciò, tornar doverebbe a lui confuse e pentite, ma dalla sua bontà, con che egli è sempre stato pronto a ricevere le innamorate, come leggiadramente accenna profano poeta, torna qual fiume a fonte o fiamma a sfera, qual linea a centro o calamita a polo. L'alma stanca al suo Dio, poiché là solo può trovar possa, onde fuggì leggera. Alla pietosa manda, cui già s'era stendendo angel licenzioso il volo, sviata dietro a quel piacere che duolo, serrò il dì, lunge or si rivolge a sera. E poiché in questo mar che senza sponde loco non ha dov'ella fermi il piede, fra le moli del senso e torbide onde, con verde avvio di speranza e fede, al suo signor, dalle tempeste immonde, candidetta colomba alfin se ne riede. Così pur doverìano le sviate religiose, dopo aver un tempo solcato il torbido mare delle vanità, prendere leggero il volo ver la contemplazione dell'eterna divinità. Ma perché, a guisa di piante tenacemente abbarbicate al terreno, sondi soverchio troppo in sue fierezze profondate, van dalle proprie colpe alla tomba accompagnate, e talor, per interessate discordie tra di loro e confessori, mancandole gli opportuni spirituali aiuti, si immergiano a poco nelle proprie passioni, ma al loro stato improprie, e sottomettono al sensual talento la ragione, sicché, nel malabito invecchiate, s'averà in loro ciò che fu cantato da un famoso cigno: natura inclina al mal e viene a farsi l'abito poi difficile a mutarsi. Quando è radicata la mala consuetudine del peccare, trovo così difficile il transito dal peccato alla virtù, dalla colpa alla grazia e dal merito della pena a quel del premio, quanto riuscirebbe lo stare con un piede in terra e aggiungere con la mano le sublime sfere del cielo. So però essersi vedute di queste stupende e maravigliose mutazioni. Paolo, prima acerrimo persecutore della Chiesa, divenne poscia così ardente predicatore e così celebre dilatatore della cristiana fede. Maddalena, di pubblica peccatrice, diventò universal esempio di penitenza. Ah, che son rari quelli a cui venga dato, dopo lunghezza di tenebre mentali, un sovrabbondante raggio di divino lume. A tutti non è concessa la grazia efficace, ma molti lasciansi offuscare l'intelletto da ignoranza e dalle proprie passioni. In tutti gli animi non regna la cognizione di se stesso, anzi rari la possiedono, essendo questa virtù così grande che tutti i cori non ne possono essere capaci. E se dall'eccellenza del fine s'argomenta l'eminenza dei mezzi, è cosa pregiatissima il conoscere sé medema, perché da questa conoscenza nasce la vera umiltà, che è principio, anzi sicurezza di salute, che è sicuro antidoto contro la superbia, mortifero veneno dell'anima. Tertulliano, nell'Apologetico a Gentili, pone due maniere di cecità. L'una, non conoscere se stesso e i suoi difetti. L'altra, il vedere in altrui quelle colpe che non sono. Ambidue, questo si ritrova nell'anima della non vera religiosa, e dalla prima è congiunta la seconda, poiché l'essere talpe in scorgere i propri difetti fa che elle siano tant'arghi occhiuti nei mancamenti delle sorelle. Onde poi nasce che da ogni legger sospetto sia originato temerario giudizio e che taluna rimprovera altra di suoi propri, anzi di minor, falli, di modo che ragionevolmente le si potrebbe dire priusquam interroges ne vituperas quemquam, qui predicas non furandum furaris, medice cura te ipsum. Così, osservando l'altrui, non le proprie colpe, corron una dietro l'altra a briglia sciolta nelle consuetudini del peccar contro la regola, sicché, dopo la precipitosa carrera, arrivano alla meta della morte, donde non può rendere altro conto dell'anime loro al Signore che d'aver passata la fanciullezza con ignoranza, la puerizia con negligenza, la gioventù con lascivia d'abiti e vanità di parole, l'adolescenza con malizia, la vecchiezza con superbia ed ambizione, applicata in dar non buoni consigli, poiché, come poc'anzi t'additai, per i raccordi di queste consigliatrici infernali, restati a offesa nelle puntualità religiose la semplicità degli innocenti petti femminili. Queste, che hanno veduto con gli anni mancarsi il nutrimento di loro male inclinazioni, riducono tutta la sostanza della loro malvagità in ambizione, con che ardiscono reputarsi degne di gran dignità. Non è perciò che con la scorta della fraude e ipocrisia non giungan ad ottenere gli ambiti gradi primieri, nonostante aver taluna di queste poco o nulla di merito. Queste tali però arrivano a tal onore non con altri meriti che con una buona apparenza, sotto cui tengan celata una real e perfetta malizia. Il loro desio ad altro non s'estende che andar di continuo opprimendo l'altre e avvantaggiando se stesse. Di queste parve che si intendesse il salmista quando disse «Usque quod illigitis vanitatem et quantis mendacium». Entrato poi nel comando, si fanno appunto sentir per un steppo di spine a punger le loro suddite nella più viva parte dell'onore, quando però non si frapponga l'interesse a trattenerle. Alcune di queste abbadesse formansi una polizia a lor modo, se non vogliamo però dir che sia simile a quella di Tiberio imperatore, di cui Tacito ebbe a dire «Iam Tiberium corpus, iam vice nondum dissimulationis deserebat». Con dissimulazioni iniqua compiaceno a ciascuna servendosi molto bene di quel proverbio di Grecia trasportato, cretizzar con quei di Creta. Vedono che il viver della maggior parte è con inganno e conforme agli abusi di corte, onde stiman bene il bandir da loro la lealtà e seguir quell'arte che fu dal Machiavelli insegnata ai principi per il governo dei loro stati. Che si dirà di quelle superiore o lor sostitute, fra le quali ve ne sono non sol di subordinate dai presenti, ma di quelle che fomentan qualcheduna delle suggette nei loro umori, e coi loro scudo dell'autorità, almeno in apparenza, le difendono, sì che le misere, in tanta satisfazione di mente, s'assicurano non solo di peccar contro la regola, ma soverchiate da quella che lor pare felicità, prorompono. Chi la felicità negar presente può? Chi può dubitar della fortuna? Ben è vero poi che infine le infelici restano gabbate e ogni volta che cessin di correre a pro e voglia delle non superiori matiranne, l'usura illecita della libertà concessa loro, che non favorite ma tradite si devono chiamare. Questa è un'ipocrisia falsaria ed una maniera fraudolenta con la quale, senza cagion, si pongono quelle che meno il merita nell'indiscreta bocca del volgo e con malizia mettisi l'onor loro in compromesso. Cosa da stimarsi, in guisa che Seneca ebbe a dire a Lucillo che ogni uomo non privo di ragione, che abbia cor generoso e temma i rossori della vergogna, ama molto più di morir con onore che di vivere con infamia e viltà. Sant'Agostino dice in un suo sermone: O povera Chiesa Cattolica, o infelice Repubblica Cristiana, quando vedrai in color che ti governano avarizia nei vecchi, malizia nei sacerdoti, invidia, poiché questi tre vizi uniti crocifissero il figliolo di Dio. Io mi faccio arditamente lecito l'aggiungere: Guai a te, monastero, in cui regnano queste tre piaghe dell'anima, dove non si conosce giustizia, né si castiga se non con quei motivi con i quali gli ebrei maltrattarono Cristo, quod per invidiam tradidissent eum. Né fuor del mondo non è giudicato per reo chi non è convinto del proprio delitto scoperto e da petizione di un accusator falso, interessato, senza chiari indizi, testimoni degni di fede, esamini rigorosi e puntuali e processi giuridici che comunicano di reità colui che è accusato per delinquente. Egli non è condannato a pena veruna. Ma fra chiostri, ad ogni traditrice lingua è lecito oscurare altrui la fama, prestandole ai superiori non solo ambe le orecchie spalancate, ma anche il credito. Quando a guisa d'Alessandro il Grande doverìano, venendo loro alcuno accusato, otturarsi con la mano una delle orecchie per serbarla intiera alla parte accusata. Che così anche vuol Salomone che non mai si venga a sentenziar se prima non si sono ascoltati ambo i contendenti. Se così oprassero i prelati e i vicari delle monache, non avrian tanto di che goder quegli ingannevoli fraudolenti delle inventate ciance contro le sorelle e del veder loro accuse false aver cagionato il precipizio alle perseguitate. Dal che, fatte animose, moltiplicano le maldenze e querelle in altrui pregiudizio, attribuendo però ad altre che non vi pensano l'ufficio di accusatrici, e così feriscono più innocenti in un colpo. Onde di queste tali forse profeticamente intese il re della Giudea quando disse «Et lingua mearum unus gladius acutus». Quegli infelici, perciò, che devono udir la sentenza contro loro, senza pigliar termine ad applicarsi ad altro tribunale, non potendo altro, dansi alla disperazione, né sanno dove ricurarsi per restare ascose agli occhi dell'invidia e schermirsi dai suoi livori. Consideri chi nel cor ha pruriti onorati, qual sia l'animo di colei che a torto trafitta nella reputazione, altro non può a sua difesa contro le maligne e false accusatrici che citarle al tremendo tribunale dell'eterna giustizia, e qual affetto in lei produca il vedersi continuamente in ogni loco e in ogni affare le sue nemiche innanzi agli occhi. Per non riuscir soverchiamente prolissa, nell'enumerare gli ingiusti successi e le macchinate frodi, vorrei pur dar fine a così esosa diceria, ma la molteplicità degli errori che in chiusi loghi occorrono dagli uomini ad ogni felicità, ma aperti ad ogni insidia e tradimento, somministra alla penna abbondante materia non sol per far diluviar lacrime dagli occhi di buon cattolico, ma per impietosir le stesse tigre. Troppo è ingiusto e puzzolente alle nari di Dio, è troppo odioso alla pietà di quegli uomini che in verso nomini, seppur ve n'è, il sacrificio che a lui si fa delle figliole o parenti, a forza incarcerati nell'abisso. So che dovrei por un duro morso alla lingua per non insinuar me stessa in vizio, tanto da me aborrito quant'è la maldicenza, tanto più che sovviemmi aver letto in Dante sempre a quello che a faccia di menzogna dee l'uom chiudere la bocca più che puote, però che senza colpa fa vergogna. Non posso, non di meno, non dire perché parmi debito di chi è zelante della vera religione l'avvisar coloro che sono le principali cagioni di così enormi e mostruosi eccessi. A ciò s'astringhino. E sovrumana grazia stimerei se mie vote parole penetrassero al cor dei fieri genitori e rimovesser dagli impetriti lor cori le ingiuste risoluzioni con che tradiscan l'anime proprie e dalle figlie in questo mondo a tormenti infernali. Ma oimè, che il ciel li ha troppo lungamente sofferti, onde già nell'ingiustizia abituati, premon lor più le politiche ragioni che la divina legge e comandamenti. E che l'osservanza delle istituzioni dei santi. Se stimate pregiudicar la molteplicità delle figliole alla ragion di Stato, poiché se tutte si maritassero, crescerebbe in troppo numero la nobiltà e ti impoverirebbe le case con lo sborso di tante doti, pigliate la compagnia datavi da Dio senza avidità di denaro. Già a comprar schiave, come voi fate le mogli, sarebbe più decente che voi sborsaste loro, non elle, per comprar padrone. E poi, già che nel far serragli di donne e in altre barbarie imitate i costumi dei traci, dovreste anche imitarli in uccidere i parti maschi subito nati, un sol conservandone per ogni famiglia, essendo molto minor peccato che seppellir vive le femmine. Guai a voi a cui l'interesse politico ha levato la giustizia dei sentimenti. Già parmi udir gli impeti del vostro sdegno proferir contro mia sincerità pungenti concetti, che non sprezza, non biasma né religiose né religioni, anzi col capo per riverenza chino esalta alle stelle la santità e merito di quei monasteri e monache che son rettamente governati e che chiamate da celeste ispirazione volontarie corrispondono esponendosi a patimenti di monastica vita. A chi? Per elezion propria, cingesi di sacre bende, dole e il duol scaccia la pena, caro il sente. Ma quelle che a forza entrano nel claustral laberinto, dove l'anima lor, dove s'annida, è legata ad indissolubili obbligazioni, e il corpo ha stretto agli arbitri e t'indiscretezza anche di vilissima canaglia, l'essere ivi condennate a strazio peggior l'inferno, poiché stan sempre dei monasteri le mura, sin da esploratori degli andamenti lor circondati, e in sin delle più grave loro infermità, nei maggior pericoli le vien tolto il liberamente introdur medici, chirurgici, o chi sia, senza aver prima ottenuta licenzia da due o tre magistrati. Sì, che se l'istessa morte non compatisce alle miserie loro col non uccidere, trapassan l'infelici all'altro mondo senza rimedi spirituali e corporali. La condizione di coloro che sono dannati alla schiavitù dei turchi più crudeli e più e meno deplorabili di quella delle sventurate. Possia che an quelle per sollievo la speranza bandita affatto da queste, cui non è concesso l'effettuar cosa veruna conforme alle loro voglie, ancorché oneste e giuste, ma da tutti tiranneggiate e oppresse. Oh, quanto meglio prava gli antichi gentili col sol lume della natura che oggi non fanno i cristiani che dovrian aver la mente piena di raggi splendidissimi di fede. Fabbricavan gli ateniesi a diversi dei altari sopra i quali scrivevano il nome del Dio a cui era dedicato. Trasferirsi a predicar loro San Paolo e vedendo sopra un'ara notate queste parole ignoto Deo, li riprese, insinuandole che quello era il vero Dio che aveva fatto il mondo con tutte le cose che in lui sono. I filosofi della medema città, invedendo nel dì della sì rara redenzione la tenebrosa eclisse, e sentendo gli orribili terremoti, supponendoli non naturali, consecrarono un altare a quel Dio, che operava sì gran meraviglia, al quale non volevan che fossero offerte altre vittime o sacrifici che di pianti, preghiere e lacrime di tribulati, che chiedessero misericordia per dinottar che tal Dio è rifugio d'afflitti, e più si compiacque dei singulti, sospiri, lacrime e torazioni che d'offerte d'animali e di fiere. Questi, col sol mezzo di ragioni naturali, benché non conoscessero chi adoravano, con tutto ciò in certo modo incontravano il volere di Dio. E voi, ingratissimi, che non solo per congetture di sdegni veduti, ma per l'istesso crocifisso che mirate, per voi morto, il quale sapete non appagarsi che di cori e volontà libere, profanate ai suoi altari con offerte di vittime violentate, se non svenate da coltello materiale, almen trafitte dal ferro di vostra tirannide. Ben gradisce, Sua Divina Maestà, le lacrime e i singulti, non già quelli che mandan dagli occhi e dalla bocca le tradite donne, bensì di quelli che escan da un cor pentito dalle macchinate le offese. S'egli non più dilettasi di sacrifici di fere, tanto men riusciragli grato quello che pretendete fargli di figliole, forzatamente condotte a guisa di animali, ad essere a lui consegnate. Della volontà s'appaga il Creatore, sia o di servirlo o d'offenderlo, e ne resta altrettanto appagato quanto dall'opere stesse. Qualcosa dunque potrete attendere e sperare, ingrati, dal moltiplicare di continuo il numero delle tormentate in questo inferno, se non tragico fine che vi risulti in guai presenti e pene eterne. Forse saprete dalla divina mano ottenere il regno che ha promesso ai suoi fedeli, mentre vi mostrate sì poco atti a saper reggere giustamente una casa, nonché sostenere lo scettro di regno eterno. Giammai non udirete: venite, benedicti patris mei, percipite regnum. Non è capace di celeste benedizioni chi, con opere sacrileghe, merita maledizioni. Ben ponno gli infelici, derelitte dai parenti e da voi genitori, che l'organizzaste i corpi, a ragion dire. Elongasti a me, amicum, et proximum et notos meos a miseria. Non è lor concesso vedere i cari genitori in altra guisa che dietro a gratte di durissimi ferri e seco parlar, come si dice, ad ogni punto di luna, per così angusti siti, che in tal logo è dato fatica il passaggio alla voce. È spedita la loro libertà, non solo in essere sequestrate dal mondo, ma anche essere sempre impiegate in qualche carica o d'ufficio, che di continuo le tengo occupate. Trascorso il tempo alla superiorità di vecchia badessa, la nova, costituita nella suprema dignità, fa una nota, dovendo ciascuna chiamar per ordine il suo grado, le quali al suon di una campanella, dopo l'Ave Maria, nell'ordinato loco, compariscano tutte a rinunciare il vecchio ed accettare il nuovo ufficio, nell'intonarsi da quella il Veni Creator Spiritus. Non s'attende da lei la divina ispirazione, ma sol a riguardo alla notta già di sua man formata, benché fosse ingiusta. Rinunciato che ha ciascuna nelle di lei mani le chiavi appartenenti al passato carico, ella torna ad impiegarle in novi uffizi, e lor con un abbassamento di capo e con baciarli le mani mostran segno di gradirli. Ma il tutto è finto. Resta la maggior parte mal soddisfatte, nessuna a pieno contenta trattene le buone volontarie che in tutto si forman col voler di Dio e delle loro maggiori. Non v'è funzione che vada disgiunta da dispendi, che questo pur anche risulta in aumento di infortuni per le infelici destinate a tanti tormenti. Le necessità della celeraria per loro soddisfazioni intorno alla mensa e i vari pareri di quelle in dimande e talora in lamentazioni promuoverebbero il riso in Eraclito. Ma quivi tutto questo riesce soggetto a cagion di pianto. Non sono tenute le infermiere a governar puntualmente la malate, accadendo che l'inferma sia vilissima, nata in contado e la servente del maggior sangue della città. Devono le lette alla caneva, aiutate da poche, far di continuo conveniente quantità di pane, dispensarla alle mense e sentirsi sovente ferir le orecchie da querula voce, con aggiunta a questo da altri molti impieghi che riescano insoffribili ed incessante fastidio alle ben nate. Sono tenute a sonar campane senza numero alla giornata, le sacrestane, con applicazione ad altre mille minuzie. Non descendo, no, a rammentar di parte in parte ogni altra come diciamo noi religiose, obbedienza, come di lavandara, tosera, vestiaria ed altre, per non indur tedio nel lettore. Dirò solo che, finito l'anno, oltre essersi con sudori e pensieri affaticata, altro non resta che aver speso il suo proprio e senza merito. O dolori, o inesplicabili tormenti patiscano quelle che non avendone, gli bisogna trovarne per scendere al pari delle più comode. O grande ingiustizia, queste sono le fortune che conseguono alle sventurate dalle loro case escluse come se fossero altrove nate. A queste dai parenti si impone il nome di sore per poi dar titolo di signore alle più meccaniche della città, che a migliaia fattesi meretrici godono i vostri dispendi con che comprate gli infami diletti. La porzione a queste tribolate dovuta denota che poco sono dissimili dal povero fuggitivo Giona. Uscito questo dalla balena, vedendosi in tante miserie involto, se lesse una capannetta per suo riquero, coperta da grand'edera che, avviticchiata, facea le ombre. Colà, riposando, prendeva alle continue sue passioni qualche respiro. Permisse Dio che questo profeta edera tutta secca da rosicante verme nelle radici mirasse. Di ciò l'infelice angustiato, querelandosi, doloroso dicea: «Signore, che più fare in questa valle di lacrime e miserie d'ogni ristoro privo? Levami da questo mondo, già sentomi impotente a più tollerar colpi sì fieri. Petivit anime sue ut moreretur». Uscite le private d'ogni speranza dalla balena del mondo, afflitte per trovarsi dai suoi propri abbandonate, se non fuggitive, scacciate dai raggi della bella luce del cielo, per forza ricovransi nella capannetta ria della cella, per schivare al possibile ogni sinistro incontro, ed appunto pigliano a loro sollievo qualche diletto, o d'erbe che inombrino, o d'uccelletti, o d'altro conforme alla diversità di inclinazioni. Ma eccoti, d'indi a poco, non mancare il verme dell'invidia che le fa venire una parte con scomuniche del prelato ed abbandonare anche tal poco onesto e dilettoso trattenimento, poiché di una maligna il livore, a forza di mormorazioni, detrazioni e persecuzioni, fa lor ogni applicazione di questi gusti innocenti cadere, ed è pur la malignante nei medesimi errori che ella attribuisce alla regola contraria, molto più d'esse immerse. Se sia ciò di noi alle sconsolate immagini cui non manca prudenza per conoscer d'invidiose la falsità e ingiustizia, oppresse perciò da dolori insoffribili, gridan a gara con Giona: «A qual parte, o signore, ho da volgermi, s'altro che spine a trafiggermi preparate non miro e tortiche a pungermi pronte?» Disperate, anch'esse vedono le lor pene irrimediabili. Petunt animabus suis, ut moriantur. Cessi ormai la maraviglia che nasce dal legger che nell'assedio di Gerusalemme, spinte le madri da rabbiosissima fame, si s'attollasser con le carni dei propri figli, poiché minor crudeltà era la lor che, tratte da estrema necessità, non volontarie, ma astrette, con lacrime agli occhi e dolorosa passione al cuore, commettean tal misfatto, sol offendendo il corpo, non l'anima, di quei parti che liberavan dai tormenti di vita. Che non è l'empietà di quei padri che uccidono l'anima incarcerando i corpi delle figliole. Assai meglio fora sbranarle, ingoiarle, che saziarebbe sì quell'ingorda fame che avete dell'oro, per cagion del quale tradite il proprio sangue, da voi posto a gustar tutte di questo mondo sublunare le pene, privandole di ogni speranza di rimedio. Non va incendio d'infortunio, sciaguro, tribulazione, in cui, spirando l'aurea di speranza, non resti mitigate, ma quel mal che è irrimediabile, non una volta, ma mille dà la morte. Per non tediarti, o lettore, mi restringo ed avvicino il fine, quando che io abbia in parte soddisfatto alla prima mia proposizione di provarti che sian questi luoghi chiusi il realissimo inferno. Facciamoci dunque da capo. E sì, diciamo se le tormentose infernali pene ebbero dalla superbia in prima origine, appunto la superbia dei iniqui genitori, è quella che condanna ai chiostri del monacale inferno le sventurate. Son elle in guisa macchiate di questa pece e sì la conservano in se stesse che non v'è gente più altiera di finte religiose, quali appena degnansi di parenti. le putte a spese, per meccaniche che siano, entrate in monastero la spendono alla grande. Le suore converse, se prima di vestir l'abito erano salariate serve in case private, entrate fra mura claustrali, guai a colei che le raccordasse l'essere state fanti, tutte quasi discendan da illustrissima prosapia. Cose ridicole perché l'animo, tanto differente dalle inventate ciance, le fa conoscer serve di nascita e di pensieri, non servendo che chi meglio paga. Ben a ragion, per la superbia fabbricossi l'inferno, poiché tal pernicioso mostro d'ogni altro mal è radice. Dice San Gregorio, radix qui pecuncti mali est superbia. Conchiudasi che s'atroci tormenti patiscan nei penosi abissi superbi, eguali ne provan le forzate monache, dovendo mascherare in se stesse la terribil ferza di questo vizio con manto di umile agnella. Eppure anche fatto l'inferno, perché resti in esso acremente punita l'avarizia, di cui è proprio centro, e come ho già accennato, tiene ella nei monasteri il proprio seggio, provando quei cori in cui alberga maggior cruci dei dannati, poiché convien lor far di quei dannati che tanto amaro apparente rifiuto. Nel centro della terra provan pene inesplicabili gli iracondi, patiscan le colleriche religiose tutti nell'anima i spasmi dell'averno, essendo a strette ritener lo sdegno nel core che appunto a guisa di sopito fuoco acquista forza. Ascoltisi Dante ciò che nel sesto cerchio del suo inferno dice agli iracondi: questi si percotean non pur con mano, ma con la testa, col petto e coi piedi, troncandosi con denti, a brano a brano. Se non si impiegano le monache in queste sì crude operazioni di sbranarsi fra loro, qualche volta pugnan con le parole, e dove manca la corporal forza per tema dei castighi, supplisce la rabbia, così che si attribuiscano mille infamie di che participano anche i loro parenti, di modo che ambo le parti restan a vicenda saturate una degli obbrobri dell'altra. Vien cruciata tra gli infernali caligini la gola, che pur anche nell'irreligioso inferno sopramodo patisce, ove alle tormentate tolto s'attollarsi vorace bestia, che da Aristotele nel libro degli animali vien chiamata bocca di lupa. Diceva Catone essere l'ubriaco un volontario pazzo, e tal gola per il più segue l'ubriachezza. Archita Tarentino la dice capitalissima peste dell'uomo. Platone le dice titolo d'esca d'ogni male. Galeno l'appella infirmità e morte espressa dell'uomo, apportando tal sentenza: gulosi nec vivere possunt diu, nec esse sani. Eppur, vizio così esecrabile viene praticato nei luoghi consacrati al Dio, senza aver verun riguardo a quel passo dell'esodo detestante le crapule e l'ebrietà, ove s'accenna che dal mangiare e bevere soverchio nascano altri inconvenienti. Sedit populus manducare et bibere et surrexerunt ludere. Quant'altro inferno non fosse fra mura claustrali, se il compongan da se stesse l'invidiose. Ma perché di lor altrove ho parlato, basta il dire che lor penose angosce passan di gran lunga i tormentosi morsi dei spiriti infernali, perché se ben dall'altrui impietà sono in angusto sito incarcerate, non è però che l'anima con occhio di lince non veda tutto il circuito del mondo, e mirando tutte le felicità mondane, con invido sguardo, non si duolga d'esserne stata privata, e non invidi sino lo stato delle più meccaniche e libere. Onde, in tali, s'adempie quel giusto desio del prudentissimo Seneca, il qual bramava che ogni invidioso potesse in un tempo aver gli occhi e orecchie in qualsi sia luogo, affine che, vedendo infiniti per beni di fortuna, per scienze e per valor celebri, da invisibili ponture trafitto patisse doppia pena e martire. L'ultimo dei sette capitali peccati, sì come non resta escluso dal loco destinato dalla divina giustizia a condannati a pene eterne, così anche di continuo assiste al tormentoso inferno delle forzate monache, che fra gli accidiosi portan la palma, poiché, sempre negligenti, anzi agghiacciate nel servigio del Creatore, trascorrono il tempo, Il savio nei proverbi invia queste oziose e lenti nel ben oprar alla formica perché impari da così piccolo animaletto non solo le dovute operazioni, ma ad anticipatamente provvedere ai bisogni sì del corpo sì dell'anima. Va ad epiger ad formicam, e questa, per il più dassi al detestabil vizio dell'ozio, qual, come ben disse il Petrarca, è causa d'ogni male. La gola, il sonno e l'ozio, piume hanno dal mondo ogni virtù sbandita. Insomma, per questo vizio registrati ad una le pene dei dannati, tutte son compendiate in questo reale inferno dei viventi. Parlando, Isaia dice di quelli verme seorum non morsit, a queste infelici vive di continuo nella coscienza il verme della sinderesi che loro aspramente l'anima morde. Leggesi di quel giovine che in virtù di Cristo fu resuscitato da San Giovanni, che narrando le atroci pene della tenebrosa region diceva: Vermes et tenebras flagellum, frigus et ignis, demonis aspectus, scelerum confusio luctus. Niun di tali martiri manca agli imprigionati di vostra tirannide, o padri, o parenti, se la perpetuità di cruci e la privazione della divina visione sono i due maggiori tormenti dei condannati all'averno. Eccoli ambo in eccellenza, nel monastico inferno, ove s'entra senza speme di mai più in eterno riuscirne. E disperatamente entrandovi, non solo non si conosce e vede la divina maestà, ma si rimane anche prive di veder l'opere dal perfettissimo architettore fatte, cioè la vaghezza di sì maraviglioso teatro, com'è il mondo che pur tanto per le monache quanto per altri dalla suprema mano fu fabbricato. Me stenderei a provar come nel fin della tirannia paterna promisi che quivi né anche mancano i penosi dolori di Titio, Isione e delle Bellidi ed altri, ma non vo mischiar favolose invenzioni a verità infallibili, che non mendico poetiche finzioni per far conoscere che in nulla differiscano i patimenti di involontarie religiose, le quali non mai più vedono speranza da potersene liberare dai cruci che obbligano i sentimenti della divina giustizia ad infernal tormenti. Chi fia dunque che in opposto alla portate mie ragioni porti argomenti valevoli, s'alcun più loquace che eloquente m'accuse di libera troppo e mordace in materia sì delicata, risponderogli che molte cose trapasso modestamente sotto silenzio, che potriansi da me dire, anzi di più direi, ma il ver di falso a faccia, a che nessuno mi sgriderà per zelo, che gli abbia, che si pregiudichi agli spirituali interessi di Santa Chiesa, ma più spinto da quel dolor che gli ha mentre sente scoprisi gli abusi introdotti da sua barbarie. Io di nuovo sinceramente replico che le chiamate della divina grazia ed ispirazione si ponno chiamar angeli terreni e dir di loro quelli stesso che canta la Chiesa di Benedetto il Santo, Vittam angelicam geres in terris. Ben nell'ultima parte di questo mio sconcertato parto, a cui da me sarà dato titolo di paradiso monacale, abbastanza son per provarvi che, sebbene i venerandi corpi delle religiose abitano in terra, non di meno le loro menti rapite in cielo godono tutte le glorie di beati, le quali, in virtù dello Spirito Santo, vengano ampiamente diffuse fra questi miracoli della divina grazia. Di quelle dico che non forzate ma di propria voglia chiedono in sin con lacrime d'essere annoverate fra religiose serve di Cristo, a cui spontaneamente offrono il corpo e cor intatto alieno da mondane cure. A queste, sì che son sue vere e care amanti, il riamante liberal lor sposo dice petite et accipietis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Simil piante doverian pullular nei giardini dei monasteri, che sarian così deliziosi paradisi, non tormentosi inferni. Il dissuader animi così risoluti nel servigio di Dio è da me stimato sacrilegio non disugual a quello che commettesi nel far che le meschine, per cagion diversa, spargono lagrime e singulti. O come cognoscan nel prendere essilio dal mondo, che la lor vita altro non ha da esser che penosa morte. Onde, meste e lente, entran nel preparato munumo, che lor tanto più orrido appare quanto che ad imitazione dei veri cimiteri lo scorgano immobile, ma stabile in un stesso sito eternamente. Oh, quanto mai è noioso il ritrovarsi sempre ad una tavola con le stesse vivande. Oh, quanto mai tormentoso il coricarsi ogni sera in un medesimo letto, respirar sempre la medesima aria, praticar sempre le medesime conversazioni e veder sempre le medesime facce. Ma che ascolto che tu, o malvagio ipocrita, vai sussurrando e mormorando. Sappi che non trapasso i limiti e in niente offendo con i miei detti Dio. Anzi, è mia intenzione distinguere la zizzania. Inimicus homo. A te dico, o homo, addio nemico, a te che col parlar ben ma viver male non vai tra i veri figli di Santa Chiesa, ma ben indegno sei del nome di cristiano, e tu un vero ritratto sei del vantator fariseo. La vita persuade di chi parla, non il parlar di bel color dipinto. So che qual tu crederai che altri sia tale, onde, ingannato dalla tua lascivia, con lingua mordace bugiardamente dirai che quella, che su questi fogli ti fa santamente vedere la verità, desia di goder quella prima libertà praticata nell'età dell'oro in quel modo che da molti poeti vien descritta e massime con mirabile arte da Luigi Tansilo oppur dal Tasso, che in questi pochi versi la restringe. Nell'età d'or, quando la ghianda e pomo erano del ventre umano lodevol pasto, né femmina sapeva, né sapeva uomo che cosa fosse onor, che viver casto trovò debil vecchion dagli anni d'omo queste leggi d'onor che il mondo ha guasto. E altrove, solo chi segue ciò che piace è saggio, ed in sua stagion dagli anni il frutto coglie. Ma in ciò mille volte mentì, che non mai si lai di pensieri all'ignaro in cor di donna, diceva pure il sopracenato femmina e cosa garula e loquace. Ovidio, condenando a perpetua sete e fame Tantalo per essere stato troppo loquace, fa ampia fede essere la loquacità più propria del maschile che del femminil sesso. Querit aquas in aquis et poma fugacia capta, Tantalus hoc illi garrula lingua dedit. Che si trovi che gli uomini parlino o scrivino contro le donne, nulla in lor biasimo risulta, essendo la di lor malvagità notissima. Ma che un di loro contro l'altro o in voce o in scritti s'offenda è prova indeficiente di verità. Borbotti pur dunque pertanto e vibri in me maledica lingua le sue saette, che dal real profeta fur dette, sagitte, putenti e sacute, che io, invece di opprimerle, gloriermi di sue vanne ed ingiuste ferite, che per castigo di Dio, nel voler ferir me innocentemente, si ritorneranno contro chi le vibrò e verificaressi in loro quel santo detto. Linguas suas defixerunt adversus se ipso tamquam gladioso, il supremo motore che sempre giustissimo ed indifferente penetra a vedere i recessi più interni dell'anima e conosce la sincerità dei miei sensi e fini, sia quello che mi difenda da quelle cupe voragini delle perverse bocche che tentoron di assorbere in sé l'onor mio, e a lui col suo amato re ricorro, prorompendo in lacrime per ottenere il riscatto da quella misera servitù in che m'han posto costoro che poi vogliono anche acuir contro di me le maligne lor lingue. Così dunque supplicovi, o mio Signore, redime me a calunni somnium. Chi con disinteressatamente s'applicherà le mie parole non negherà essere i chiostri veri inferni di viventi, e chi con ipocrite e politiche ragioni vorrà contraddirmi sappia che io, ad imitazione di Daniele, chiamo sopra il suo capo quella stessa vendetta che egli invocò sopra i perfidi e fraudolenti vecchi che macchinarono insidia contro l'innocente Susanna. Sol gli scelerati loderan l'iniqua operazione di serrare a forza fra mura le figlie e parenti. Non è chi quelle ami de puro e di sincero amore. Ne insegna Tullio nel libro d'amicizia che di quello due segni si danno luogo. Il beneficio che si conferisce, l'altro l'affanno che patisce per la persona amata. Argumentiam da questo la tua palese bugia. Qual beneficio fai alla figliola che dici da te essere amata? Argumentiam, mentre innocente in carcere la condanni, astringendola a rigorosissime leggi, sol osservabili e dolci a chi si compiace menar vita di santi. Come per lei patisci, se per agiare a te stesso i comodi e piaceri violenti l'infelice a continui tormenti e patimenti? Non meriti che la terra ti sostenga. Non so come che l'aria non ti disperda e non ti fulmini il cielo. Per ammonire tuo impetrito core e ti indurlo a retta giustizia sarebbe a proposito un nuovo Mosè, che levando tutti i primigeniti partecipasse a te tutti i flagelli che cader sovra l'Egitto. Quel gran talete filosofo, interrogato in qual guisa l'om potesse giustamente vivere, diede simili risposta. Se gli operasse ciò che comanda d'altrui. Cavate voi conseguenza da queste parole, qualsiasi lo stato vostro. Ritornate in voi stessi, o mentecatti, né stimensi da voi altrove indirizzate le mie parole che al zelo dell'anime e al culto divino. Trovate voi ragioni da opponervi in contrario, per le quali mi si confuti che ad una mente forzata il monastero non sia tormentosissimo inferno, un agitato da qual si sia più grave tribolazione. Confida nell'orazione e spera nella sovrana misericordia. Ma l'incarcerate in un chiostro non hanno in cui confidare e per così dire vengono legate le mani dell'onnipotenza dall'umana malizia a soccorrerle. Sanno che quante penitenze, astinenze e torazioni sono state esercitate dagli Antoni, dai Geronimi e Tilarioni non sarebbero valevoli di intender loro la liberazione. Sono sicure, non han di che dubitare che a far penetrare i loro clamori in cielo non v'è intercessione bastevole ed è lor noto che le lacrime, ancor che amare come di Susanna, nulla oprano a lor pro. Si descreveris salvare nos continuum liberabimur, disse, piena di speranza la bella Ester, onde ottenne il liberar da morte tutto il suo popolo. Ma tal fede nell'infelici monacate riuscirebbe inutile, vana. Ciascuno, sempre che con fiducia a sé posto, nelle braccia d'orazioni e penitenza, rimettendo totalmente, rimettendo le sue cause in Dio, ha ottenuto quanto ha richiesto. Così la saggia Judith, armatasi di intrepida fortezza e di sicura fede, levò l'assedio dalla città di Bettulia. Diceva, Peniteamus, et indulgentia eius frugis lacrimis postulemus. Ezechiel, re, con sì possente mezzo aggiunse a se stesso 15 anni di vita. Giosuè rattenne il sole, Davide ottenne il perdono, il buon ladro il paradiso. Ma ben ponno le misere, con effuse lacrime esclamar della loro innocente prigionia, come la moglie di Gioacchino, gridar con la regina di Persia, continuo, liberabimur. Armarsi di penitenza con la valorosa vedova guerriera ebrea, orar con pari fervor di quello di Giosuè, chiamarsi in colpa col cittareda reale e confessar Dio con più prontezza che non fece il ladrone in croce che, ad ogni modo, gettano al vento loro fatiche perché, posto che abbiano il piede di là alla claustral soglia, si può dire che discendunt in infernum viventium. Ove è lor tolto lo sperar, refrigerio, di mai più sciogliersi, anzi son sicure di perpetuar ivi, per tutta l'eternità, lor dolorosi omei. Fine.